Dialog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Si chiama Fulmine, è nato per sfrecciare tra le nuvole, ma è vulnerabile proprio ai temporali. L'allarme arriva dal Pentagono dopo un volo interrotto per il maltempo in Florida. A ridosso della perturbazione, i reattori dell'F-35 Lightning si sono spenti. Il serbatoio rischiava di prendere fuoco. I tecnici della Lockheed Martin, per rendere il cacciabombardiere più leggero possibile, hanno ridotto troppo lo spessore del serbatoio, che però così rischia più facilmente di esplodere. E cosa ce ne facciamo dei cacciabombardieri F-35? Chi dobbiamo cacciabombardare? No, non è che li dobbiamo comprare solo per fare la parata del 2 giugno, che consumano come 20.000 Fiat Punto, eh? Di questi F-35 a rischio Fulmini, secondo un documento del Pentagono, l'Italia ne ha acquistati 90, che dovrebbero rimpiazzare altri 252 aerei tra MX e Tornado. Un acquisto che costa al nostro paese 15 miliardi. Una spesa necessaria, secondo il responsabile dell'Agenzia della Difesa, che è quella che compra gli aerei. Perché l'Italia nei prossimi anni dovrà sostituire... Certo, c'è un simpatico, se non si parlasse di cacciabombardieri, paradosso sul fatto che si parli di aerei da guerra, di macchine potentissime, fatte apposta per sparare missili, per bombardare, come se fossero bruscolini. Sono oggetto di sketch comici, ci ha scherzato Littizzetto, ci ha scherzato Crozza, sono in bocca a molti politici in campagna elettorale, sono impugnati come strumento comunque, vuoi demagogico, vuoi di raffronto politico sul fatto se in un momento di così palese crisi, in un momento in cui tutti stringiamo la cinghia, in un momento che, in cui mancano le risorse essenziali, si vale la pena spendere soldi in cacciabombardieri, come dice la Littizzetto, cosa ci facciamo? Le parate del 2 giugno. La verità, secondo me, non è mai sempre a senso unico. Esisteranno ragionevoli giustificazioni, sia per definire le spese dei cacciabombardieri, almeno è una domanda. Esisteranno possibili ragioni per cui vengano fatte certe spese in un momento in cui sembra che i soldi non ci siano per le funzioni essenziali della vita dignitosa degli italiani. Beh, di questo oggi vogliamo parlare, perché il fatto che il cacciabombardiere F-35 sia oggetto di chiacchiera da bar, come se si parlasse dell'ultimo modello di tablet appena uscito, o si parlasse di un'automobile, di una partita di calcio, in realtà non ci fa sorridere, ci fa riflettere. Questo è l'argomento di oggi. 800240024, visto che anche voi ne avrete parlato, visto che anche voi nelle chiacchiere dal fruttivendolo, nel bar, avrete sentito dire, avete appoggiato la tesi, ma spendiamo dei fantamiliardi negli F-35, sarebbe meglio spenderli per altre cose. Beh, come la pensate? Questa è la mattina per dirlo. Sapete, no, gli aerei, gli F-35, quei bombardieri che abbiamo comprato per 15 miliardi. 15 miliardi, sai quei bombardieri super tecnologici, avveniristici? Quei bombardieri che non temono niente, nessuno? Ecco, tutto ottimo, eh? Ma se c'è un temporale, pare che esplodano. Cioè, invece che i nemici, bisogna tenere sotto d'occhio il meteo. Ma scusate, ma si può pagare uno sproposito, una cosa che neanche funziona? Ah già, abbiamo 1000 parlamentari. Certo, se le cose sono come ci ha detto Crozza nel suo ultimo monologo, ci sarebbe davvero da rabbrividire. Ma è possibile che sia così evidente, palese, smaccato, vergognosamente improponibile questo paradosso? Cioè, mi stanno scrivendo su Facebook, spesa necessaria, ma di chi? Solo ai grandi produttori di armi, che schifo, siano maledetti, mi stanno scrivendo tutti. Può essere che la verità sia così, è palesemente vergognosa sotto gli occhi di tutti. Può essere che ancora una volta, come recita un antichissimo detto che ormai è stato citato e stracitato, non si sa più quale sia l'origine, che la prima vera grande vittima quando si parla di guerra sia proprio la verità. Generale Fabio Mini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Io mi rivolgo a lei come persona informata dei fatti, ma che ha dedicato la sua esistenza allo studio di queste problematiche, per cercare di capirci io in prima persona qualcosa. Ricordo che il generale Fabio Mini, userei mezza trasmissione se dovessi citare tutte le sue caratteristiche, prerogative e cariche. Comunque, generale Corpo d'Armata, è stato capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa, che a partire dal gennaio 2001 ha guidato il Comando Interforze delle Operazioni dei Balcani. L'ottobre 2002 e l'ottobre 2003 è stato comandante della Forza Internazionale di Pace Ha guida NATO in Kosovo, tra i vari incarichi è stato portavoce dei capi di Stato Maggiore dell'esercito italiano, nel 93 e nel 96 ha svolto la funzione detto militare a Pechino, ha diretto l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze ISMI, commentatore di varie questioni geopolitiche, strategia militare, su varie riviste, giornali e via dicendo. Mi fermo qua perché sennò comunque ho reso l'idea che lei è persona che comunque ha pieno titolo per parlare di questo argomento, per farci capire se al di là della facezza, della battuta, ci sono dei fondi di verità. Partiamo dalla questione dell'F-35 di cui siamo diventati tutti esperti. Di cosa si tratta in realtà? In realtà si tratta di un programma di ammodernamento dei nostri caccia, quindi delle nostre linee di volo da combattimento, che risale alla fine degli anni 90, quando ancora non si sapeva bene se la stabilità del crollo, portata dal crollo del muro di Berlino, fosse una stabilità reale oppure l'inizio di una nuova minaccia. Quindi era un aeroplano fatto per un combattimento che prevedeva ancora una grande potenza di blocco magari di fronte, e quindi elementi e velivoli paritetici almeno da contrastare, e minacce paritetiche da contrastare. Quindi si immaginava che ci fossero io la semplifico per far capire gli ascoltatori, un blocco nemico che ancora poteva essere qualcosa che veniva dalla dissoluzione del grande impero sovietico, del comunismo reale, via dicendo, che potevano attaccare con altre aree. Quindi questo aereo era ideale per un combattimento aereo, qualcosa del genere. Esatto, in questa maniera. Poi durante gli ultimi 20 anni abbiamo visto che questo tipo di minaccia era insussistente, e anzi, per mantenere, io dico sempre, faccio un inciso, sono uno di quelli che fa dell'ironia sull'F-35, perché sono 25-30 anni che vedo che le priorità di ammodernamento delle forze armate italiane sono lasciate da una parte per fare sempre più spazio a questi interessi di lobby che fanno riferimento, non sono interessi ovviamente criminali, sono interessi che però fanno riferimento a una realtà che era di 30 anni fa. Ma mi faccio capire, generale, una cosa: io ho un tablet che avrò comprato 6 mesi fa, già mi dicono che è vecchio, devo cambiarlo. Com'è un aereo, un così fondamentale strumento di sicurezza e di tranquillità? Si parla di roba di 30 anni fa che ancora qualcuno pensa di poterla acquistare e usare. Beh, no, innanzitutto 30 anni fa si pensava 30 anni dopo. Il fatto è che questo aereo, così come è stato concepito e come è stato realizzato, fra l'altro al risparmio, perché nel frattempo diversi paesi si sono ritirati dal programma, non danno più i finanziamenti, e la Lockheed, quel grande sviluppo che pensava di fare, ha dovuto poi farlo. Le stesse forze armate americane hanno ridotto le loro esigenze, e per cui adesso questo aereo costa un sacco di quattrini, e a forza di risparmiare su risparmiare siamo arrivati a questo paradosso, che io comunque lo considero un fatto marginale sul quale si può scherzare, ma che poi è una cosa molto che si può tranquillamente riparare, quella del serbatoio. Il serbatoio che esplode se ci va un fulmine sopra, che mi sembra anche abbastanza scontato che un fulmine faccia esplodere un serbatoio. Ma certo, assolutamente, ma poi è anche scontato che uno di questi aerei debba passare in mezzo ai temporali. Voglio dire, se non arriviamo alla vera e propria guerra climatica, nel senso che riusciamo a modificare il clima come vogliamo noi, che è una di queste anche cose che sono possibili, non sono probabilmente realizzabili ancora, ma sono possibili. Se non arriviamo a quello, gli aerei questo devono fare. Devono, ma esiste l'aereo a prova di fulmine? Mi scusi, generale, faccio una domanda forse stupida. Sì. Esiste? L'aereo a prova di fulmine, un aereo che se lo colpisce un fulmine non succede nulla. Esistono aerei, e sono gli stessi aerei di linea, i quali hanno delle capacità di passare o affrontare delle condizioni meteorologiche molto, molto peggiori di un fulmine di un temporale. Ma non trova paradossale che si vada al risparmio su un aereo da combattimento e non si usano gli stessi, diciamo, accorgimenti tecnici per guardarlo appunto da un temporale? Perché l'aereo di linea può evitare di passare nel temporale, ma l'aereo da guerra, se deve combattere, deve passare comunque. È un, paradosso, però è anche un fatto di una cosa in divenire, cioè questi qui stanno facendo ancora i test e a forza di fare i test una esigenza finisce per contrastare con un'altra. Come diceva il presentatore del servizio, se l'esigenza è quella di alleggerire l'aeroplano e si fanno più sottili le pareti dei serbatoi, poi un'altra conseguenza c'è dall'altra parte. Adesso è venuta fuori quella dei fulmini, ma l'F-35 in sé è già da un po' che ha dei problemi di carattere tecnico realizzativo, per cui non solo è vecchio come immaginazione, non solo quando lo metteremo in servizio sarà già pronto per essere sostituito perché non funzionerà, ma ha dei problemi tecnici proprio anche immediati, anche così, anche di ragionevolezza. Ecco, lei, il suo ultimo libro è Per chiare lettere, perché siamo così ipocriti sulla guerra. È sorprendente, ma è anche elemento di grande onestà intellettuale il fatto che un generale scriva proprio un libro in cui racconta quanto in realtà la verità faccia parte delle vittime necessarie per la guerra. In ogni guerra è importante che non si sappia la verità, perché fa parte proprio della strategia, delle tattiche necessarie e importanti e delle possibilità posteriori di riscrivere la storia di tutte le guerre e tutti i conflitti. Questo vale anche per questa modernissima questione sull'acquisto degli armamenti in momento di crisi e soprattutto in momento di campagna elettorale. Sì, e questa ma c'è una differenza con la storia dell'inganno e dell'ipocrisia, nel senso che l'ipocrisia fa parte dell'inganno. L'inganno è uno strumento anche di carattere operativo per le questioni belliche, perché ma sono rivolto al nemico. Se no non esisterebbero lo spionaggio e il controspionaggio se non ci fosse. Esatto, ma non può essere l'ipocrisia e l'inganno rivolto a noi stessi. E invece quello che sta succedendo da molti anni a questa parte è che prima delle operazioni si inventano dei pretesti per ingannare non l'avversario, che fra l'altro è sempre evanescente, no? E non ci crede mai a quello che diciamo noi, ma per ingannare i nostri stessi leader, i nostri stessi capi politici. Io ricordo sempre che il presidente Bush è andato in discorso a tutta la nazione con una stupidaggine che non serviva a niente, che non era vera e che era quella delle armi di distruzione di massa dell'Iraq, ma non solo lui, che poteva essere anche... Anche noi sulle campagne di pace ci abbiamo giocato abbastanza. Ma noi in questi giorni stiamo sentendo delle cose, per esempio sul Mali, che sono veramente... Dice sì, andiamo lì con i militari, ma non sarà un'operazione militare, sarà un'operazione logistica. Come se la logistica militare non fosse una parte di un'operazione militare, e l'operazione militare, in questo caso per esempio nel Mali, non fosse un affiancarsi in un'operazione di guerra. Voglio dire, anche qui giochiamo... Certo, generale, lo dice lei che è stato comandante di una forza internazionale di pace in Kosovo. Ma certo, perché io proprio perché ci sono stato, quando ho visto cosa succedeva in Bosnia, nei Balcani, in Macedonia e tutto il resto, io sono venuto a contatto con delle persone che ragionavano esattamente in questa maniera. Cioè, noi non siamo qui per fare la guerra, siamo qui per fare la pace, ma la pace era lo scopo finale e nel frattempo c'erano soldati come quelli che avevano le dipendenze, come altri, che nel frattempo crepavano, rischiavano e dovevano fare azioni di guerra. Io ricordo benissimo quando partivano i cacciabombardieri dall'Italia e tutti i colleghi dicevano parte una missione di pace. Io al tempo intercettavamo attraverso i radioamatori i comandi venivano dati, si sapeva benissimo che andavano a far morti, a sparare, a tirare bombe anche su civili. Fermiamoci un istante. Nicola, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo solo intervenire, ma ormai il generale ha già detto... Vabbè, dica la sua, così registriamo anche l'opinione generale. Oltre a quella del generale. Non è che adesso non spendiamo niente comunque per la difesa e per gli intercettori che abbiamo in linea prima dell'avvento dei nuovi caccia. Io credo che... Lei perché comunque... è così esperto, Nicola? Si interessa, è un appassionato? Io sono sempre interessato, sì. E no, io volevo anche dire che fino a 10 anni fa avevamo in linea degli intercettori del 1940, progetti del 1940. Ad esempio? Beh, c'erano gli F-104. Ma se li ricordo, posto volevo questo. Si ricorda, generale, gli F-104 ogni tanto una volta ne cadde uno anche vicino a casa mia quando stavo a Perugia. E sembrava normale, è caduto un F-104. Ma io mi ricordo anche gli F-84 e mi ricordo anche che si chiamavano pare volanti, ma c'erano delle esigenze che erano diverse da quelle di oggi. Comunque, andiamo avanti con gli ascoltatori, poi aspettiamo il commento. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Un ex pilota. Sì, esatto. L'ho fatto per 40 anni e per quanto riguarda poi la mia compagnia ho introdotto un aeroplano molto moderno, ovviamente molti anni fa, perché siamo nel 92. E di cosa si parla? Si parla di degli Airbus che adesso vanno per la maggiore, che era tutto elettronico, aveva tutto un sistema elettronico di volo e che cambiava completamente la filosofia di volo tra quelli precedenti che erano elettromeccanici e meccanici e questi qua elettronici. E mi ricordo che anche allora l'Airbus per un certo numero di anni, nonostante, entrò in linea e fece continue modifiche sia nel layout che nei computer, perché è normale che sia così, nonostante avessero fatto dei progetti lunghissimi e che avessero anche isolato i sistemi per dei disturbi dovuti appunto ai fulmini, avevano isolato il sistema fino a 100 volte il segnale più alto che può disturbare, nonostante questo qualche problemino c'era. Quindi bisogna sempre diciamo passare un periodo di esercizio di un mezzo per vedere esattamente cosa bisogna fare. Esattamente. Però esattamente. Un mezzo militare, l'esercizio è il combattimento. No, l'esercizio è anche quando le forze armate, quelle di tutto il mondo, se lo prenderanno, faranno talmente tante ore di volo che inevitabilmente continueranno a fare modifiche. Guarda, io mi costruisco degli aeroplani da solo, in questo momento sto andando al lavoro per vedere di fare ancora qualche modifica sull'ultimo che ho costruito, perché qualche cosa c'è sempre. Cioè, sono aerei leggeri se li costruisci? Sì, sì, in questo caso sono aerei leggeri, ovviamente. Ho continuato a fare questo gioco che a me piace. Quindi molto. Dall'F-35 al bricolage aeronautico dell'ascoltatore Ugo. Luigi. Allora, il discorso è quello che ha detto il generale, l'ha detto con la mia bocca, è sacrosanta verità. Allora, innanzitutto l'F-35, se si leggeva tempi addietro... Ma lei perché è così esperto? Scusi, lo domando a tutti. Un collezionista di veicoli militari. Quindi lei colleziona aeroplani nel suo cortile? No, io ho mezzi militari, veicoli. Cosa ha? Mi faccia ad esempio i pezzi forti della sua collezione. 4 autoblindo. Di che epoca? Della Seconda Guerra Mondiale. Ma funzionano, sparano? Sì, si va ai raduni, si fanno le manifestazioni, si va a fare le commemorazioni in Normandia ogni 5 anni, così. Io sono abbastanza dentro, conosco un sacco di gente, piloti e queste storie qua. Allora, se interpelliamo qualcuno della Alenia, si strappano i vestiti di dosso, perché questo aereo qua è un bidone, ma un bidone nato, al di là che si possa modificare, è un bidone nato. Ricordiamoci poi, questo si leggeva già qualche anno fa in riviste, con problemi, con sistemi che funzionano o non funzionano. Ricordiamoci poi che la Lockheed è corruttore nato, i C-130. La grande questione, Antelope Coble. La grande questione dei C-130. L'aeronautica, cioè gli Stati Uniti hanno sempre bloccato la nostra aeronautica o regalandoci dei surplus tipo gli F-84, così quando la Fiat stava sviluppando aerei nuovi, e il G-91 gli è passato agli occhi, perché siamo riusciti a fare un aereo fatto bene. Adesso abbiamo l'Eurofighter, che lo costruiamo noi insieme degli altri, e vogliamo andare a comprare questi aerei. Ma figuriamoci, saremo matti. Fermiamoci un attimo. Gli dico questo. Sì. Il precontratto era stato firmato da Prodi. È continuato, perché questi contratti poi continuano nel tempo, perché c'è lo stato d'avanzamento di lavori, si dice, non ne prenderemo tanto. Nel 2002 l'ha rifirmato Berlusconi. L'ha firmato tutti. E adesso... E l'ultimo preso da Monti. Monti, dice, sì, questi li dobbiamo prendere. Poi ne ha tagliati 40 da loro, adesso li pigliamo un po' meno. Sì, ma perché? Perché sennò lo ammazzano. Fermiamoci là, si fermi. Generale Fabio Bini, io sono... fortemente stupito, anche divertito questa mattina, anche il suo Polo sospettava. Ma lo sapeva che gli italiani erano un popolo di esperti di aerei militari? Io pensavo soltanto di calcio e poco più. No, Assolutamente, anzi direi che sono meno esperti di calcio che di questioni di carattere militare. Ci sono degli appassionati che mi stupiscono ogni volta, nel senso che sono veramente bravi e sanno dei particolari che io non immagino neanche. Quello che manca semmai in Italia è una vera cultura della strategia, che è una cultura anche di organizzazione di carattere militare. Ma ha ragione questo ascoltatore dicendo che erano migliori gli Eurofighter? E non so nemmeno di cosa si tratti. Ma per quello che dovevano fare e per quello che devono fare ancora oggi, perché lo stanno facendo molto bene, andavano bene, ma avevano anche questi, rispondevano a una logica che era di carattere nazionale economico, nel senso che si voleva che comunque, siccome gli aerei bisognava comunque farli, ma questo, e io contesto questo, siccome bisognava comunque comprare qualche cosa, tanto vale che lo facciamo noi insieme a qualcun altro, facciamo i consorzi, così le nostre industrie non rimangono a piedi e noi non rimaniamo indietro nell'ammodernamento. Allora, generale, fermiamoci un istante, devo dare le informazioni della borsa, visto che stiamo toccando il punto dolente, che probabilmente gli ascoltatori conoscono molto meglio di me. Io questa mattina sto imparando tantissimo. Lei nel suo editoriale su Repubblica di ieri dice che noi saremmo il paradosso, il primo stato al mondo che ha acquistato una porta aerei che però non avrà gli aerei da metterci sopra, e un po' fa il paio con quello che stava accennando. Melog, la realtà condivisa. Sempre più stupito, ammirato e sorpreso dall'estrema competenza del mio pubblico in campo di caccia bombardieri e in generale di aerei da guerra, sento Oscar. Oscar, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io sono un ex militare, però marina, quindi altra parrocchia, però amo anche le cose dell'aviazione, ho degli amici piloti eccetera eccetera, farla breve, l'F-35... Beh, comunque, scusi, questi aerei dovrebbero decollare almeno da una porta aerea alla fine. Sono una parte di quella di quindi, quell'ordine, è previsto per un decollo corto, si chiama. Il modello B, quello F-35B. Esatto, il modello B, quindi è un aereo che già viene provato in America. Che però se non lo producono più, non abbiamo comprato una porta aerea e non ci facciamo nulla praticamente. Beh no, non è vero, perché abbiamo gli Harrier. No, siccome non è che noi li compriamo più, viene ridotto il numero da 130 a 90, adesso si addio quanto verrà ridotto. No, visto la fine che fanno le navi da crociera, pensavo potrebbero essere riconvertite per uso civile anche le porte aeree. È un po' duretta, costa un po' troppo per essere una nave di crociera, costa molto di più di una Costa, come diavolo si chiama, quella Costa Concordia, parecchio di più, auguro pure la Garibaldi, costano decisamente di più. Comunque lei cosa voleva dire? Che ci sono aerei migliori? Che come aereo, è un signor aereo, poi che possa avere dei problemi eccetera, aerei del genere nascono 15 anni prima, come minimo, questo non ha detto piloti che ancora oggi hanno una grande nostalgia dello spillone dell'F-104. Comunque sì, dicevo, però era una bara, mi scusi. Prego? Non voglio, io non ho competenze, solo ne ho visto uno schiantare proprio dietro la mia casetta da ragazzo, era una bara. Non avevano, infatti avevano quasi specialmente certe velocità. Cioè è venuto giù come una zanzara quando uno gli dà il flit, l'ho visto proprio cadere. Ne sono caduti tanti anche di Tornado, ne sono caduti tanti ancora di AMX, purtroppo può succedere, sono cose che succedono, io sono un ex specialista, quindi vedo le cose anche da sott'acqua. Però in ogni caso sono dei signori aerei, ho avuto occasione di vedere, fare anche una, non io personalmente, ho visto degli agi della versione B, e tutti gli stessi piloti della US Navy, diceva che è un signor aereo, io parlo di piloti, cioè di gente che lo piace. Poi tutte le cose. Ma lei, Oscar, se dovesse dare un consiglio al futuro ministro della difesa, cosa consiglierebbe di acquistare? Ma io innanzitutto spererei che ci fosse l'attuale ministro della difesa, perché è un ex sommergibilista ed è in gamba, e poi uno che seguiva il procurement, quindi uno che i soldi li sa spendere. Sì, quello prima era un avvocato, forse ci capisce. Di quello prima ancora era un avvocato, forse. Sì, ma quello lasciamolo perdere, infatti era meglio Crosetto, perché era lui che si muoveva, si dava da fare e veniva anche imbarcato sui sommergibili a trovarci. Detto questo, tra parentesi, non era proprio fisicamente il più adatto per fare il sommergibilista. Guarda che io sono taglia tipo Crosetto, eppure sono sommergibilista, Guarda che anch'io sono piuttosto grosso. Ma io pensavo che li dovessero scegliere tutti piccoli, almeno c'era questa voce. Ma assolutamente, no, intanto voce. Ci si piglia delle capocciate, vabbè, amen, è nel bilancio, quindi non è un problema. Io sono entrato nei sommergibili a Taranto una volta, andai a fare un servizio. Alla base del sommergibile? Sì. Beh, era un bel posticino. Cos'è sui Todoro, sui Re, sui Sauro? Lo Shire, sì. quello della, del Consum, ne arrivo anche, anche dal Consum. Sì, ma a me faceva paura entrare accidente, dentro, un po' ma mi sento soffocato. È, una, è un sommergibile, è un aereo che vola nell'aria. Usciamo da queste questioni. Faremo una trasmissione, caso, guardi, Oscar, dirò a Fabrizio Intonti di prendere il suo telefono. Farò prossimamente una trasmissione sui sommergibili, perché mi interessa l'argomento. Dicevo, i piloti della US Navy, io parlo di piloti, cioè gente, non solo il collaudatore che è della, della Lockheed, quindi è evidente che sì, parla a tono suo, dicevano che è un signor aereo. Altrimenti noi come Marina possiamo, abbiamo gli aerei che sono vecchi di 35-40 anni, come progetti di quello di 50. Altrimenti andiamo a pigliare della, dai russi da su 26. Sì, però Oscar, alla fine che ci facciamo? Ci giochiamo ai soldatini con sta roba? Non è perché... che ci sono, beh, i casi sono di o ci teniamo le forze armate oppure liquidiamo le forze armate. Allora, se vogliamo avere delle forze armate, l'aereo, l'F-35 serve a unificare, perché adesso abbiamo un parco di aerei che non finisce più. Prima avevamo gli F-16 che erano a leasing. Adesso abbiamo ancora i vecchi Tornado, abbiamo il Typhoon che invece è un signore aereo, però abbiamo la MX che è veramente una, vabbè, una fabbrica. Ci fermiamo Oscar, perché sennò capisce soltanto lei e quelli come lei che hanno che questa roba la maschera. Devo fare una trasmissione un pochino più popolare, quindi scendo a Pino. Pino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signor Nicoletti. Lei invece? E io sono un ex pilota, o meglio dire, dovrei dire un pilota, perché quando uno è stato pilota... Lo sia per tutta la vita. Per tutta la vita. L'affare dei fulmini, guardi, non entro nel merito F-35 sì, F-35 no. Ho beccato un paio di fulmini. A lei ha provato l'aggressione del fulmine, cosa accade? Guardi, non succede granché. Normalmente gli aerei vengono colpiti dal fulmine. L'aereo di per sé è una gabbia di Faraday. Un fulmine non può compromettere granché la funzionalità, le funzionalità essenziali. Molte volte i passeggeri non se ne accorgono. Passa lo guarda, scarica, passa attraverso, non succede. Non te ne accorgono. L'unico problema, ma se un problema relativo, è gli impianti elettrici. Ma gli impianti elettrici sono progettati su una cosiddetta barra essenziale ed una barra parallela che si chiama barra non essenziale. Va in tilt la barra non essenziale. C'è un sistema di backup immediato, immagino. Sì, e poi da fare dei serbatoi. Guardi, su questa faccenda se ne sa poco, ma molti parlano con scarsa competenza. Tutti i serbatoi di tutti quanti gli aerei, specialmente quelli militari, sono costruiti con avendo all'interno una guaina che si chiama autosigillante protettiva. Per far scoppiare un serbatoio di un aereo non ci riesce nemmeno un colpo d'arma da fuoco, si danneggiano varie cose ma non i serbatoi. Fermiamoci qua, è molto interessante ma diventa troppo tecnica. Ritorniamo al nostro ospite, il generale Fabio Mini. Ricordo i suoi libri, Perché siamo così ipocriti sulla guerra, Chiare lettere, Mediterraneo in guerra, Atlante politico di un mare strategico, Einaudi 2012. Generale, io rimango continuamente stupito, però ha qualcosa da aggiungere o da obiettare su, diciamo, le dichiarazioni tecniche dei nostri ascoltatori? No, sì, un paio, non è solo obiezioni, ma sono conferme, sì, e magari punti di vista diversi. Allora, uno riguarda proprio la questione delle modifiche. È vero che sempre vengono fatte modifiche a tutti i sistemi d'arma, gli aerei ovviamente, ma attenzione, sono innanzitutto aerei che costano molto in partenza e costano molto in manutenzione e costano moltissimo nelle modifiche, e le modifiche non ce le vengono regalate. Noi siamo debitori perenni agli Stati Uniti per il sistema Hawk, che è un sistema missilistico contraereo, perché dagli anni 60 che l'abbiamo comprato questi continuamente fanno modifiche e mettono versioni diverse e ci fanno pagare e ci obbligano, perché altrimenti rescindono i contratti, ci obbligano a prendere sempre le modifiche nuove. È un trappolone, quindi uno acquista anche un debito, il capestro per sempre fare l'upgrade obbligatorio. Assolutamente. L'altra questione era quella dell'aereo di volo. Sì, ci saranno i nostri piloti che voleranno molto e quindi elimineranno tutte queste inconvenienti che ci possono essere. Attenzione, il bilancio della difesa oggi, parliamo di quello della Marina, del collega sommergibilista, il bilancio della Marina oggi viene quasi interamente assorbito per mantenere in piedi la portaerei Cavour. Quindi le altre esigenze sono tenute veramente... Che lei però dice, generale, che rischia di essere inutile la portaerei Cavour. rischia no, così. Ah no, questa poi è un'altra questione, ma voglio dire quella che... Eh no, ma ce la dica perché mi interessa. Le ore di volo non ci saranno, cioè i piloti saranno costretti con questo tipo di aerei che costano molto a volare poco, e che è un paradosso. Veniamo alla questione degli Quanto aerei. Costa un'ora di volo, per capire? Costa troppo l'ora di volo e i finanziamenti, cioè il bilancio normale delle forze armate, quello dell'aeronautica sarà lo stesso, non sono sufficienti a sostenere a lungo questa cosa. Ci vogliono sempre operazioni militari eccezionali. Cioè, per capire il paradosso generale, per far capire che ascolta, un'ora di volo è l'equivalente di un piccolo appartamento in periferia, ecco, una cosa del genere. Come un piccolo Quanto costa? No, il costo... crudo, no. Quanto ci costa un'ora di volo? Le ore di volo degli elicotteri sono ore di volo che... Sì, ma ore di volo incominciano a mettere una bella ipoteca sulla casa. Ma quanto in cifra? Più o meno, per capire. Ma più o meno, parliamo per esempio, non so, sui 1.000-1.500 euro un'ora di volo di un elicottero, di una cosa. Ma di questi aerei invece? Fino a 10.000-15.000 euro, ma faccio delle stime così a caso. Ma un'ora non ci fa niente, scalda il motore, nemmeno fa in tempo a decollare un'ora. Quindi... No, in un'ora arriva molto lontano. E il fatto è che consuma anche molto, poi deve ritornare, e questa autonomia costa veramente tanti soldi. Ma l'esercizio proprio, cioè anche il livello di addestramento dei piloti, si fa con le ore di volo. Bisogna accumulare ore di volo, e per accumulare queste ore di volo ci vogliono un sacco di soldi. E però lei dice una cosa molto molto chiara su cui bisogna riflettere. Proprio tornando a ormai l'elemento simbolo che è l'F-35, ma è giusto avere dei simboli che sono elementi di partenza. Dice, in realtà questi aerei non servono a delle esigenze operative, ma semmai le creano. Ma se non servono, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di impegni che si sono presi quando c'erano delle ambizioni diverse, delle esigenze operative diverse e degli sviluppi tecnologici diversi. Ma scusi, ma siamo in un momento in cui nessuno paga nessuno. Il problema del nostro paese è che fanno tutti i debiti ma nessuno paga. Ma non si può dire a un certo punto alla Lockheed o a chi per lei non paghiamo più, non li vogliamo più. È impossibile. Ma assolutamente, certo, c'è la questione che tutti i soldi che abbiamo dato andrebbero persi, e comunque si spende anche non pagando, però si spende sempre molto di meno che pagando, e su questo ma poi c'è una questione fondamentale, che è il mio punto personale per il quale io insisto. Noi dovevamo fare la ristrutturazione vera delle forze armate italiane in termini di efficienza e in termini anche di sostenibilità già 25 anni fa. Allora si ferma, generale, adesso mando il traffico, lei si prepari, la domanda che le farò fra un minuto è: se lei fosse plenipotenziario, per assurdo, cosa farebbe immediatamente, la miglior scelta, non tanto dal suo punto di vista, ma in generale, per il paese? Melog, la realtà condivisa. Mentre il generale Fabio Mini si prepara a rispondere alla mia domanda, se lui fosse plenipotenziario, come si comporterebbe di fronte a questo cruciale problema che appassiona il paese più di quanto io sospettassi questa mattina? Abbiamo un paese fortemente competente nel campo di impegni economici nella difesa e in spese militari. Cosa farebbe lui? Intanto sentiamo Roberto. Roberto. Buongiorno Gianluca, buongiorno generale. Io volevo semplicemente dire, essendo padre di una ragazza soldato da un anno, che è stata raffermata per il secondo anno, che può star bene l'investimento più o meno ridotto in aerei e quant'altro. Il generale Mini ha detto una cosa giusta, si parla di sostenibilità anche dell'esercito, basta fare un giro nelle caserme e vedere come la truppa, o che io vorrei chiamare carne da macello, si è trattata, nel senso che caserme senza lavanderie, caserme con le mense semichiuse, i soldati che prendono già uno stipendio abbastanza, diciamo, misero, sono costretti a spendere quello che prendono per portare la roba a lavare, per comprarsi da mangiare, farsi da mangiare in caserma piuttosto che di nascosto, tra l'altro. Cioè il soldato che col fornellino si scalda la carne in scatola e si lava i pedalini, dice guarda, spendono miliardi per l'F-35, sì, esatto, e non mi danno nemmeno a me la lavatrice. Sì, ma tenga presente che tra l'altro sono cose che non potrebbero fare, perché non si può stendere in caserma, non si può farsi da mangiare, per cui sono questi di andare a mangiare in pizzeria, quindi, o comunque hanno dei sotterfugi, poi magari so, i capi chiudono un occhio, non lo so adesso, questo sinceramente. Quindi c'è un aspetto, c'è un aspetto fantoziano che non conosciamo. Sì, ma infatti va, io credo che vada conosciuto il generale Mini, credo che possa, adesso lei risponderà. Credo che possa confermarlo, ed è una cosa veramente, direi, delirante, per cui dico... Comprate gli aerei, benissimo, comprate invece che 130, ne comprate 50, gli altri soldi usateli per sistemare le caserme, per dare l'equipaggiamento alla truppa, per fare in modo che comunque non ci siano anche lì dei magna magna, perché poi magari succede anche quello. Beh, è una vecchia storia, la mia generazione che ancora ha fatto il servizio militare, la naja di una volta, era il classico il maresciallo che usciva dalle cucine con le derrate alimentari che si portava a casa, però mi sembrava che facesse parte più di un aspetto romantico e passato. Lei invece mi conferma che è ancora una realtà. Fermo, Stefano. Sì, pronto. Sì. Buongiorno. Io invece volevo alimentare un po' la polemica, perché mi sembra giusto anche per una questione di memorie. Ah, dica. Ecco, noi veramente alla Lockheed abbiamo già dato, nel senso che se il generale si ricorda quando ci hanno affibbiato il C-130, ma vecchia questione, sì sì, l'abbiamo citata la questione del C-130, abbiamo detto, beh, ci fu uno scandalo dietro, c'era qualcuno, ecco, appunto, che ci prendeva i soldi. Inutile, è inutile ancora una volta andare verso... magari scandali o malfunzionamenti. Quindi lei dice una volta, dice aiutiamo anche qualcun altro, facciamo affari con qualcun altro. Beh, è lecito il suo punto di vista, Stefano. Generale Fabio Mini, si è preparato la risposta? Perché, vede... ma non avevo bisogno di prepararmela, io sono... Sì, però era per paradosso, perché dobbiamo farla sintetica. Poi dobbiamo capire, perché vede, anche il padre della donna soldato ha detto una cosa che in realtà dal loro punto di vista anche loro hanno ragione. Dice, ma come? Parliamo di un esercito moderno, meccanizzato, professionale, ma ancora abbiamo questi problemi che appartenevano a storie di naja degli anni 50 e 60. Dov'è il punto di caduta in tutto questo? Il punto fondamentale è quello che ha messo proprio in evidenza il padre della ragazza, è veramente una tragedia, nel senso che noi non la facciamo pesare, noi dell'esercito, sulle altre forze armate, e non vogliamo assolutamente fare così un po' i populisti o i demagoghi. Sì, però non le dice nessuno queste cose. Però hanno ragione, cioè nel senso che noi, a prescindere dai soldi dell'F-35 dove devono andare, ma l'impegno fondamentale delle nostre forze armate deve essere quello di salvaguardare l'efficienza, l'efficacia e la dignità dei nostri soldati di qualunque forza armata. E lì c'è un problema, l'ha individuato. È un problema immenso, perché questa dignità viene invece frustrata. Quando io sento il ministro della difesa che dice manteniamo fede ai programmi perché non possiamo fare altrimenti, e dal suo punto di vista può anche avere ragione, ma allo stesso tempo vuole fare un po' di cassa molto ipotetica mandando a casa il personale e tenendo quello che rimane nelle stesse condizioni attuali, io dico che non funziona così. Ecco che quindi diciamo che l'esercito ha gli stessi problemi che oggi una qualsiasi azienda. Ma assolutamente sì. Assolutamente, ecco, invece sul discorso più ampio delle grandi spese militari, è possibile fare un po' i furbi e dire dichiariamo bancarotta, non paghiamo nessuno e spendiamo meglio i soldi? O è un'ipotesi del tutto utopistica che viene cavalcata in campagna elettorale ma in realtà non ha fondamento? No, questa ha fondamento, ma non nei confronti del personale. Questa idea è già stata fatta con la dismissione di tutto il patrimonio immobiliare delle forze armate, in particolare della difesa. Quando si è detto facciamo finta che siamo falliti, cartolarizziamo queste cose per i quali i soldi in futuro potrebbero arrivare, e dopodiché alimentiamo un altro debito. Sì, ma sono ancora lì che aspettano le caserme. A Roma ne vedo tante, stanno cadendo, ma, certo, non succede nulla. Ce ne sono tantissime ancora, e questo faceva parte, fa ancora parte di quella ristrutturazione, ma proprio una revisione strutturale profonda che avremmo dovuto fare molti anni fa, non l'abbiamo fatta, non ci siamo riusciti. Adesso che c'è la congiuntura di carattere economico, sarebbe veramente il momento per approfittare e fare delle scelte drastiche, e invece non facciamo. Andiamo qui e mandiamo a casa 20.000 soldati per comprare 5-6 aeroplani, e non consideriamo che se la Lockheed decide, come già sta pensando di fare, di non fare più l'F-35B, come diceva quello a corto decollo, quello a corto decollo dalle portaerei, non c'è nessun altro paese occidentale che sta costruendo o progettando di costruire e quindi con la portaerei Cavour che ci facciamo? Le crociere come... Noi le nostre due portaerei, non una sola. L'Harrier non funziona più. L'Harrier, tutti lo sanno, che deve essere sostituito. Lo stesso ministro della difesa ha voluto mantenere l'impegno per la versione B, perché gli Harrier non vanno più bene, sono la fine della vita, basta, non se ne parla più. Beh, è catastrofico quello che ci dice. Io questo ve lo dico, è la realtà. Poi dopo, se ma allora in positivo cosa si potrebbe fare? Se lei fosse veramente un giorno... sto parlando seriamente. Perché la soluzione ci dovrebbe essere, a tutto c'è una soluzione. Quale sarebbe la soluzione? La soluzione c'è, e c'è questa. Se un ministro della difesa prende come obiettivo fondamentale, guardando tutta la situazione generale mondiale, prende obiettivo fondamentale quello di integrare le forze armate italiane nelle forze armate europee, noi non abbiamo più bisogno, come obiettivo medio, di una struttura come l'abbiamo oggi, abbiamo bisogno di una struttura integrabile alla pari con le altre nazioni, il che significa che come obiettivo medio, come obiettivo immediato, se è quello di fare cassa, quello di ridurre i costi, quello di alimentare un po' lo dica che c'è la sigla. Nostra, la cosa fondamentale è quella, congelare tutti i progetti che non riguardano le persone. Esattamente quello che abbiamo detto noi, possiamo dire non paghiamo nessuno, non compriamo più niente, investiamo invece sull'esercito, sulle persone, su quello che si può salvare. Torneremo su questo argomento, che vedo che è molto interessante per i nostri ascoltatori. A domani.